Inspiration information. Hey Johnny, look, man, this gum is gum. Chick I was telling you about the other day, man. Ooh, she's all right. Yeah, man, she's deep in the ways of the wall. Wide in the hips of a horse. And she's so fine. Great big country girl. E salve da Radio Forte, fase zero, quinto episodio. Ciao a tutti e tutti, Ettore Andrea ai controlli, ai controllori. Trasmissionona con problemi un po' tecnici, vabbè, vediamo un po' qua. Che stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando Ioannis Alexander Veliotes, meglio conosciuto come Johnny Otis. Il pezzo è Country Girl, il 7 pollici della Kent del 68, che diverrà anche un pezzo del long play Cold Shot del 1969, se non sbaglio. E su questo 7 pollici c'è un solo di chitarra di un ragazzo di 15 anni. Ti invitiamo a scoprire chi è. Questo ragazzo di 15 anni suonerà nella stessa formazione con il padre, diciamo che Johnny Otis è il padre di questo ragazzo. E comparì anche come prima fama internazionale nelle Al Cooper Session, sempre del 1969. Ma anche e soprattutto acquista una fama ancora maggiore in collaborazione in un gran disco di cui adesso andiamo a ascoltare un brano, poi ne parliamo. Thank you. wait for me, ride the lonely man. As a hungry river rush by, wait for me, sweet Jenny Lee, he whispered with a sigh. Everywhere I look, everything I see reminds me of my love. E il brano che abbiamo sentito prima era Peaches and Regalia, da Hot Rats, di Frank Zappa, per la Bizzarri Price, un pezzo del 1969, e in questo brano il nostro ragazzo di qui sopra suonava il basso. E questo invece è Jenny Lee, da Here Comes Shoggy Otis, prodotto da Johnny Otis, scusate, per la Epic nel 1970. Everywhere I look, a Shoggy Otis, noi siamo sempre stati abituati a chiamarle Shaggy Otis, chiaramente stiamo parlando del figlio di Johnny Otis. In realtà si pronuncia Shuggy, perché a quanto pare la madre lo voleva chiamare Sugar, quindi il diminutivo è Shuggy, anche se è scritto S-H-U-G-G-E, e si pronuncia S-H-O-O-G-G-E, Shuggy Otis. Questo è il suo primo LP, abbiamo detto, nel 1970, prodotto dal padre, esce nel 70, il primo disco di una triade per la Epic. E intanto è partito l'altro brano, sempre da questo disco, che si chiama Hurricane. Il ragazzo, quando diventerà grande, si mariterà con qualche moglie. La prima è Miss Nancy, la quale fa parte del GTO, Girls Together Outrageous, un gruppo all fame, all prodotto da Frank Zappa. Nello stesso gruppo troviamo anche Miss Christine, che guarda caso è quella che compare sulla copertina di Hot Rats, il disco che abbiamo menzionato prima, da cui è stata tratta Peaches and Regalia. Per non parlare che del fatto che poi Shaggy Shuggy sposerà la figlia di Gerald Wilson, un noto band leader, nel quale suonava il grandissimo Eric Dolphy, ed era anche un grande amico di questo Gerald Wilson, e per questo Shuggy deciderà di chiamare il suo figlio, avuto con questa seconda moglie, Eric. I looked at you, girl, I saw a smile. Allora, quello che abbiamo ascoltato adesso era Ice Cold Daydream, il primo pezzo dell'album Freedom Flight di Shoghi Otis, prodotto dal padre Johnny Otis per la Epic nel 1971. Su questo disco Shoghi è la voce solista e suona la chitarra, il basso, l'organo, il piano, la batteria, le campane, la slide, un sacco di strumenti. Johnny Otis le percussioni e backing vocals, Wilton Ferdel il basso, George Duke il piano elettrico, l'organo e la celesta, Ainsley Dunbar che era un grande batterista inglese proveniente dalla scena blues che suonerà anche con Frank Zappa, la batteria, Mike Kowalski anche la batteria, Richard Aplanap, sax tenore, oboe e flauto, James Super Bradshaw, armonica e backing vocals, Vanetta Fields, Clyde King e Shirley Matthews alle backing vocals. Backing vocals di memoria I Cat o comunque orbitanti in quel giro là. Godiamoci questo bluesone. Dolce, Sweet Tang, un brano scritto in collaborazione con Johnny Otis, quindi il padre di Shoghi Otis, seconda traccia dal secondo LP Freedom Flight del 1971 per la Epic. E adesso andiamo ad ascoltare il brano forse più celebre, più significativo, su cui parleremo tantissimo nel corso della trasmissione. E lo annunciamo dopo, comunque adesso parte. Hello my love, I heard a kiss from you. playing it too. All through the morning rain I gaze, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see was purple shower bells and tea, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flower echo from a cherry cloud. Feel sunshine sparkle pink and blue. Playground will laugh if you try to ask, is it cool? If you will ride and don't see me, I'm going to be with my baby. I am free. Fly in her arms over the sea. Same window, yellow candy screen, six fingers up high, with velvet roses digging freedom fly. A present from you, strawberry letter 22. The music plays, I sit in for a few. Freedom Flight, queste parole le avete sentite anche nel brano di prima, Strawberry Letter 23, e chiaramente anche il titolo del disco. Quindi questa che stiamo ascoltando adesso è la traccia eponima. Oggi ci sentiamo così un po' eponimi, traccione psichedelico molto trans estivo, su cui ci permettiamo di dire un po' di cose, soprattutto su questo brano. Questo brano è importante perché è l'unico singolo uscito da questo LP e diventerà famoso in seguito, perché ci sarà nel 1977 una cover molto celebre, molto gettonata, che raggiungerà il quale posto, Andrea? Raggiungerà il quinto posto nella Hot 100 di Billboard e il primo posto nella classifica Soul. stiamo parlando del brano dei Brothers Johnson, cioè la cover che i Brothers Johnson fecero nel 77, quindi tre anni più tardi, cioè scusate, ben sei anni più tardi. Come avviene questa presa a carico da parte del Brothers Johnson? Praticamente il nostro Shuggie Otis usciva, diciamo, si frequentava, amoreggiava, no scusate, sto sbagliando, la cugina di Shuggie amoreggiava con uno dei due Brothers Johnson, cioè George Johnson, uno dei due, l'altro è Louis, il quale ebbe in dono da parte di questa cugina questo LP Freedom Flight. E lo sottopose appunto al cugino, il quale apprezzò moltissimo sia la traccia che abbiamo ascoltato prima, cioè Strawberry Letter, no, ma ancora prima quella che avevamo ascoltato sempre, High School Daydream, sempre da Freedom Flight, e decise di non solo usare questa traccia al matrimonio del fratello Louis Johnson, quindi al quale matrimonio partecipava anche Quincy Jones, che era già il produttore del Brothers Johnson, e lui lo sottopose, Louis Johnson, a Quincy Jones, e disse: ma che te ne pare di questa traccia? E disse: bellissima, facciamola. E nel 77, anni dopo, la produssero nel loro secondo LP, se non sbaglio, e diventò un appunto classico da discoteca in una versione un po' più lunga, di cui poi parleremo meglio e più ampiamente. Intanto godiamoci gli ultimi minuti di questa psichedelia, che poi mixeremo con altro e andremo, approderemo in un altro capitolo della storia musicale di Shuggie Otis, a cui è dedicata questa trasmissione Fase Zero da Radio Forte. Forte Prenestino. Now inspiration. Jump and fun. Quelli che abbiamo sentito in sequenza erano Inspiration Information, dallo stesso album, quindi traccia eponima questa volta prodotto da Shoghi Otis, non dal padre, e poi Four Corners di Digable Planets, da Blood Comb, poi vi diremo perché, anzi ve lo dico subito perché hanno usato un sample da brano che stiamo ascoltando, che è Island Letter, sempre dallo stesso album Inspiration Information, pubblicato per la Epic nel 1974, ed è il terzo disco del nostro eroe. Terzo disco che causa un problema al nostro Shoghi Otis, perché viene prodotto nel 74, cioè 3 anni dopo il secondo. Per questo motivo la Epic praticamente manda a casa Shoghi Otis, irritata dal fatto che appunto questo contratto di 3 dischi in realtà è durato molto più del dovuto. Per questo motivo Shoghi Otis non produrrà più nulla da quel momento, e non solo, la cosa veramente vergognosa, considerato il capolavoro che stiamo ascoltando e che vi invitiamo ad ascoltare in rete dove vi pare, tutto intero, perché noi avremmo voluto fare una trasmissione che comprendeva tutte le tracce di questo disco, che è un capolavoro imperdibile in ogni sua singola nota. Veramente un disco bizzarro, pur essendo soul, funky, blues, e comunque psichedelico, eterodosso, eterogeneo, innovativo, quello che vi pare a voi. Questo disco scandalosamente verrà ristampato, pensate un po', dal 74 solo nel 2001, grazie all'etichetta Luaca Bop di Mr. David Byrne, insieme a tante altre produzioni, per esempio della musica brasiliana misconosciuta. Ad esempio, un'altra riscoperta è stata quella di Tom Zé, ma di questo magari parliamo in un'altra trasmissione. E allora, in questo disco suonano Jack Kelso ai sax e al flauto, Jeff Martinez al flicorno, Carol Robbins all'arpa, Doug Wins, Jim Prindle al trombone, Carl Slatten, Rob Robbins alla tromba, e in più c'è una sezione archi, e poi ovviamente Shoghi alla voce solista, e la chitarra, il basso, la batteria, l'organo, il piano, il vibrafono, alle percussioni e alle drum machines. Inspiration information. Hat on my head, scritta Hat who me head, sempre dal terzo album Inspiration Information. Shoghi afferma di essersi fatto solo tre acidi nella sua vita, e su uno di questi ha scritto questa canzone. Thank you. abbiamo parlato di questo incredibile iato temporale, 27 anni dalla prima stampa di questo disco Inspiration Information, questo capolavoro assoluto, e quindi alla ristampa della Luoca Bof, che fra l'altro mi sono dimenticato di dire che era comunque unita a, oltretutto l'LP Inspiration Information, a alcune tracce antologiche da quello precedente, da Freedom Flight. Abbiamo parlato della Drum Machine. Questa è una cosa interessante perché comunque era in quegli anni abbastanza atipico l'uso di questo strumento. C'erano stati dei precedenti illustri, adesso senza stare a fare la cronologia esatta di tutti quelli che hanno usato la Drum Machine nell'ambito della musica nera, diciamo solamente che lo stesso Shuki Otis ha ammesso di essersi ispirato in qualche modo all'uso che ne ha fatto Sly and the Family Stone nel loro famoso album Desert Riot Going On, altra cosa di cui speriamo di parlare in futuro, certo. Ma comunque c'è anche un altro precedente nel 1972, il famosissimo Timmy Thomas con Why Can't We Live Together, penso un brano che voi tutti conoscete. Ed eccola qua la Drum Machine. Questo brano che andiamo ad ascoltare si chiama XL30. Abbiamo cercato di capire da cosa venisse questo titolo, non siamo riusciti, pensavamo che forse fosse il nome di una Drum Machine, ma in realtà quella che usa Shuki Otis è proprio la stessa Maestro Rhythm King. Comunque buon ascolto di questa traccia veramente bizzarrissima. Inspiration information. Thank you. Castle Top Magic. Questo è un bonus, è una tweak da una ristampa sempre di Inspiration Information, con in aggiunta un disco che si chiamava Wings of Love, dove ci sono produzioni di Shuki Otis a partire dal 75 fino all'anno in cui è stato stampato questo disco, e cioè il 2013. Ma nel primo disco c'erano questi quattro bonus, tra cui questo pezzo meraviglioso secondo noi, che inspiegabilmente è lasciato fuori dalla session originale, dalla registrazione originale, che appartiene alle stesse session di quel disco Inspiration Information. Vi ravvisiamo, stavamo dicendo adesso con Andrea, anche degli echi, se volete, un po' di qualcosa di Talking Heads. Non a caso, infatti, David Byrne è un amante di Shuki Otis. Abbiamo anche visto che nel 2018 Shuki Otis ha fatto uscire di vivo un altro LP, Interfusion, mostly instrumental, uscito per la Cleopatra Records. Purtroppo un ascolto è risultato anch'esso poco notevole, poco notabile, e abbiamo deciso di non mandare alcun brano da questo disco. Ritorniamo quindi a Inspiration Information e alla tracklist originale, con l'ultimo brano e in scaletta del disco, e per quello che riguarda la nostra selezione, di cui parleremo dopo, e il titolo ve lo diciamo subito, si chiama Not Available. Information. Inspiration information. Ascoltando è The Birth of Petey Whitrow di Georgian Muldrow, dell'album Seeds. Georgian Muldrow è una delle voci di punta del nuovo soul hip hop della scena statunitense, e questo brano appunto viene dall'album Seeds, prodotto da Madlib per la Somada Ship Connect nel 2012. Inspiration information. Vabbè, scusate queste intromissioni, ci stiamo divertendo, d'altronde qua il vischio se lo semi, ho stuccato tutto. Ritornando invece all'originale, Not Available era l'ultimo brano che abbiamo ascoltato da Inspiration Information. La formazione vedeva tra gli altri gente abbastanza bianca, abbastanza visionaria, tra cui Lee Ritenour, Ian Underwood, e ritorniamo a Zappa perché è un altro delle Mothers, e Dave Grusin alle tastiere. E a proposito di questi discorsi che abbiamo iniziato abbastanza stupidi, da una parte però simpatici, di parentele in sushi, ricordiamo appunto che la madre di Shuki Otis, la moglie di Johnny Otis, era per metà africana e per metà filippina. Adesso non abbiamo fatto la solita, diciamo, il solito percorso attraverso i campionamenti. Vi consigliamo comunque sempre di andare a vedere questo sito che stiamo a gratis pubblicizzando, cioè Usampled, ma in realtà sono veramente tanti campioni usati dall'hip hop, e non solo, anche le cover version da brani o da frammenti di brani di Shuki Otis. E infatti abbiamo messo questo pezzo perché appunto usa un sample di Not Available, il pezzo che abbiamo sentito prima di Shuggy. Shuggy? Shuggy, Shuggy, scusate tutti. Che diciamo, qua adesso stiamo per finire questa trasmissione finalmente, e volevamo fare l'ultima dedica riproponendo un brano che abbiamo già ascoltato nella versione originale. E cioè Strawberry Letter 23, la vogliamo dedicare a due persone che hanno sempre invece dimostrato di preferire la versione cover, cioè quella dei Brothers Johnson, di cui abbiamo parlato altrimenti, Matrimoni, Daisy Jones 1977 eccetera eccetera. La vogliamo dedicare, in quanto anche loro di origine afro-filippini, alle Sistas Mary. Ciao Sistas Marys, che non vediamo da un po'. Adesso questa cosa io vorrei che loro ascoltassero, perché veramente è uno dei loro brani preferiti, e lo mandiamo per contentarle nella sua versione, quella più celebre, quella più da disco music, quella appunto dei Brothers Johnson. Ricordiamo anche che questo brano si chiama Strawberry Letter perché è dedicato alla ragazza di Shuki Otis che mandava lettere d'amore a lui in una carta che profumava di fragole, e anche le prime edizioni dei 7 pollici erano confezionate in carta che profumava di fragola. Dedicata alle Sistas, e con questo vi salutiamo e vi diciamo ciao da ciao. Fase Zero. Ciao a tutte e tutti. Ciao da Andrea e Ettore, ciao dal Forte Prestino, ciao da Radio Forte. Alla prossima. Ciao. Strawberry Letter 23. Hello my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing near two. All through the morning rain I gaze, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy. Is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna information. Inspiration information.